335-699-2949 per i vostri messaggi che stanno arrivando numerosi anche oggi. Il signor Sandro scrive: tutte le istituzioni sono figlie di quella femminile. Mentre Pierre da Bologna ci scrive: a mio maestro modesto parere, la seduzione è rappresentata al meglio dalla intelligenza usata sempre a 360 gradi, semplice ma efficace. 335-699-2949 per i vostri messaggi, come anche nudocrudo@rai.it per le vostre email. La seduzione, secondo alcuni, non può che essere la poesia. Interprete una donna, Jumana Haddad, scrittrice e giornalista libanese, responsabile delle pagine culturali del quotidiano An-Nahar. Nel 2006 ha ottenuto il premio del giornalismo arabo e dirige anche la rivista Jazad, che è il corpo. Buongiorno, benvenuta negli studi di Nuda Crudo. Grazie Giulia. Allora, quanti e quali scrittori, grandi scrittori, lei è riuscita a incontrare nella sua attività di giornalista? Sono stata abbastanza fortunata, ne ho incontrato parecchi, per esempio dall'Italia ho intervistato Umberto Eco, Antonio Tabucchi, dall'America Paul Auster, ho anche intervistato Peter Handke, Elfriede Jelinek, José Saramago, quindi... Beh, quante lingue parla? Perché mi viene naturale questo... Sette lingue. Sette lingue, straordinario. Allora, come mai... questo libro, Il ritorno di Lilith, editore L'Asino d'Oro, è la prima opera integrale tradotta in italiano, quindi da cosa nasce questo libro, Il ritorno di Lilith? Dall'urgenza di narrare in poesia la sessualità femminile della donna? Non solo questo, ma anche perché quando ho scoperto la storia di Lilith, questa prima donna che c'era prima di Eva, che era libera, indipendente, emancipata, che non voleva obbedire così ciecamente all'uomo, ho anche scoperto una grande parte della mia storia personale, quindi ho scoperto delle risposte a tante domande che avevo sulla mia identità e quindi mi sono detta: ecco, io sono la figlia di questa donna, non sono la figlia di Eva che, rappresentando la costola di Adamo, è infatti una parte di un tutto maschile invece di avere la sua propria identità e il suo proprio carattere. Quindi ho deciso di scrivere la mia storia attraverso questo personaggio che anche non è solo mio, sono sicura che tante donne quando scopriranno la storia di Lilith diranno: questa è la nostra nonna. Io scrivo con le unghie, osa dire Jumana Haddad, perché? Perché infatti l'atto di scrittura per me è un atto molto fisico e anche molto violento. Io sento che quando scrivo sto scavando dentro di me stessa alla ricerca di nuove scoperte, alla ricerca di nuove donne, alla ricerca di nuove idee e di nuovi pensieri che mi potranno aiutare a vivere una vita diversa ogni giorno. E allora io voglio proporre un paio di versi, se vogliamo. Facciamo una cosa, io propongo due versi tradotti in italiano e lei poi propone un paio di versi direttamente in arabo, certo. Va bene? Allora io vi propongo: sono io la guardiana del pozzo, l'incontro degli opposti. I baci sul mio corpo sono le piaghe di quanti tentarono. Dal flauto delle mie due cosce sale il canto e dal mio canto la maledizione si espande come acqua sulla terra. Ana Lilith, إلهة الليلين العائدة من منفاه. أنا ليليت المرأة القدر، لا يتملص ذكر من قدري، ولا يريد ذكر أن يتملص. Straordinario, io non posso che ringraziare perché è veramente musica ascoltare dei versi letti direttamente dall'autrice, da Jumana Haddad. Tra l'altro voi la state ascoltando in radio, ma per chi avesse voglia di vederla, ascoltarla, godere di questa sua poesia, c'è un appuntamento a Milano per il 27 ottobre, giusto? Sì, infatti. Ecco, quindi io vi rimando naturalmente alla sua lettura, alla lettura delle sue poesie, quindi Il ritorno di Lilith, Jumana Haddad, per L'Asino d'Oro editore, però c'è anche un importante appuntamento a Milano per il 27 per tutti coloro che volessero incontrarla, assieme a Gad Lerner, tra l'altro. Quindi bene, io non posso che ringraziarla per essere stata nei nostri studi e vi grazie, ricordo tanto queste belle poesie, grazie.